Mix 24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Marco Boglione Torinese, 60 anni, il prossimo 9 maggio, ultimo di tre fratelli, padre assicuratore, madre piccola imprenditrice, dislessico e geniale. A 16 anni avvia il suo primo business, vende fotografie ai compagni di classe. A 25 è direttore marketing del Magnificio Torinese. Nel 94 fonda la Basic Net. Per lui ricco e bello, e fare l'imprenditore è il lavoro più etico che c'è. Oggi è presidente del gruppo Basic Net, che raggruppa tra gli altri marchi Rob De Cappa, Superga, Keyway, Jesus Jeans, un'azienda non come le altre, ma un network di imprenditori. Ecco, Boglione, in che senso un network di imprenditori? Cioè l'imprenditore non è lei? No, l'imprenditore sono io della mia impresa, e la mia impresa genera un'opportunità di fare affari, di fare business per tantissimi altri imprenditori, e quindi poi alla fine siamo tutti appagati e soddisfatti, e l'obiettivo della mia impresa, che è quello di avere tante maglie, tante giacche, tante scarpe che girano per il mondo con i marchi che possediamo noi, è raggiunto. Ecco, ma nel vostro quartier generale a Torino, voi non producete, non distribuite, quindi che fate? Beh, noi non produciamo e non distribuiamo, ma produrre e distribuire non sono le uniche due cose della cosiddetta catena dell'offerta. Bisogna innanzitutto possedere il marchio, far lo stile, quindi creare quindi i campionari. Quindi voi fate stile, disegnate? Noi facciamo lo stile, noi possediamo il marchio, facciamo lo stile, industrializziamo tutti i prodotti, facciamo il marketing e che quindi facciamo la pubblicità di questi prodotti, ma soprattutto abbiamo sviluppato negli anni una grande piattaforma informatica per cui tutti questi imprenditori nel mondo che lavorano con noi, che sono circa 600, fanno affari tra di loro utilizzando la nostra piattaforma informatica. Quindi, se ho capito, scusi, Basic Net è una specie di Facebook del business, eh? Sì, potremmo anche dire che è una specie di Facebook, potremmo dire che è piuttosto una specie di Alibaba, di eBay, di Amazon, è quello che si chiama oggi Marketplace. Quindi chi vuole aprire un negozio di Rob De Cappa oppure un produttore di giacche che vuole produrre le Keyway si possono incontrare sulla vostra piattaforma e fare business, è così? Sì, chi vuole aprire un negozio Rob De Cappa. E lei come li controlla? Beh, noi li controlliamo appunto, si chiamano marketplace, questo tipo di aziende, e qualcuno li definisce anche win-win, nel senso che non li controlliamo, è interesse di tutti che tutto funzioni bene. E grazie alle nuove tecnologie questo può avvenire, perché tutto questo grandissimo lavoro, noi vendiamo più di 50-60 milioni di pezzi all'anno in più di 100 mercati del mondo, quindi immagini la complessità, produciamo 6-7 mila articoli nuovi all'anno, non tocchiamo mai un pezzo di carta. Lei su cosa guadagna? Noi guadagniamo quello che diciamo in inglese si chiama royalty, in Italia si chiamano tangenti, ma non è associato proprio al sentire comune della tangente, quindi guadagniamo una parte di quello che guadagnano gli altri, perché quello che fanno gli altri dipende evidentemente tutto da noi. Lei com'è arrivato a questo tipo di organizzazione aziendale? Ma cioè, credo che sono arrivato per un fatto generazionale e culturale. Io, come ha detto lei, ho 60 anni, quindi ho più o meno l'età di Bill Gates e di Steve Jobs. E quando avevo 18 anni pensavate più o meno le stesse cose senza saperlo. Sì, più o meno come tanti altri ragazzi della nostra età nel mondo, che erano forse più appassionati a quei tempi anziché ai Beatles e ai Rolling Stones, alle potenzialità che si intravedevano per l'information technology, per le tecnologie. Quello è. Nel 99 Basic Net è stata quotata a Piazza Affari, quanto vale oggi? Oggi è difficile dirlo. Vabbè, perché oggi, oggi non saprei, ma diciamo grosso modo diciamo 250-300 milioni di euro. Senta, ma da che investimento iniziale è partito? E questo l'ho detto tante volte, quando lo dico agli americani non ci credono, perché io sono partito da 6 milioni ma di lire che equivalgono a 3.000 euro e 3.000 dollari. Ho fondato la mia società potente. Con i soliti c'era un'idea potente, sì, ecco. Che invece dell'imprenditore, ho letto, voleva fare il presidente degli Stati Uniti alla Kennedy, poi il pilota di Formula 1, pensa che le è andata meglio? Ma quando qualcuno mi chiede qual è stata la mia fortuna nella vita, dico che la mia fortuna della vita e di fare a 60 anni quello che sognavo di fare quando ne avevo 15. Il presidente degli Stati Uniti, il Papa, il pilota di Formula 1 lo sognavo prima di avere 15 anni, quando poi ho capito che non avrei mai potuto farlo, siccome non corro dietro alle chimere. E ho immaginato di fare l'imprenditore. Ma che cosa sono le 3P di Marco Boglione imprenditore? Sono la passione, bisogna fare con passione, con amore, bisogna avere pazienza nella vita e bisogna saper persuadere, bisogna saper convincere gli altri. Ma la quarta P della paura non l'ha mai avuta? No, no, la quarta P della paura si potrebbe aggiungere, poi si diventerebbero troppe. Sì, la paura troppo. Bisogna averla, non bisogna rifuggire dalla paura. Infatti c'è chi dice che l'ansia sia un ottimo segnale per prevenire e poi risolvere i problemi. Per lei c'è un sentimento, uno stato d'animo particolare che le fa capire se sta facendo la cosa giusta oppure no? Ma forse un po' la paura. Adesso l'ansia non so se è molto positiva perché è un po' bloccante, è un po' come la fibrillazione per il cuore, non batte e non sta fermo, quindi non vedo la positività nell'ansia. Ma nella paura avere paura vuol dire dover prendere delle decisioni, dover fare delle scelte. Lei ha citato Steve Jobs. Sono tante le frasi di Steve Jobs. Che le piace di più. Ma solo quelli che sono abbastanza pazzi di poter pensare di cambiare il mondo alla fine lo cambiano davvero, oppure che non lascerà mai che i soldi gli rovinino la vita, e ecco, ce ne sono tante. Le cita spesso anche Tim Berners-Lee, quello che ha per primo scritto il protocollo di Internet, perché? Ma lo cito perché ha fatto una scelta straordinaria, coraggiosa, che se vogliamo dirla grande ha proprio un po' cambiato il mondo, l'ha donato all'umanità. Quando lui ha scritto Internet erano già diversi anni che l'information technology, quindi la microinformatica e i microcomputer erano di grandissimo successo. Bill Gates era già diventato l'uomo più ricco del mondo facendo software. Però la differenza è che quindi Steve quando Jobs lui ha scritto, si aspettava, tutti aspettavamo questo protocollo universale di comunicazione e di trasmissione dati, e quando lui l'ha scritto gli hanno detto adesso diventerai tu l'uomo più ricco del mondo. Dice, no, non è vero, lo donerò all'umanità. L'ha regalato all'umanità, diciamo. E infatti la regina d'Inghilterra l'ha fatto Sir subito. Ma però Steve Jobs è un imprenditore, è il secondo, come lo chiamerebbe lei? Beh, uno scienziato. Ricercatore, un ricercatore. Senta, uno scienziato illuminatissimo che ha contribuito allo sviluppo dell'umanità. Ecco, alla domanda lei cosa fa di etico, lei risponde sempre faccio l'imprenditore. Perché è etico fare l'imprenditore? Ma perché credo che oggi tutti siamo d'accordo che forse a livello di società, di umanità, la cosa più importante è il welfare, è il benessere comune, diffuso, e quindi penso che se si vuole un grande welfare, e bisogna grandi paesi ricchezza. Lo insegnano, ci vuole una grande economia e la grande economia non la sviluppano gli stati, i governi, ma gli imprenditori. Quindi si contribuisce in modo diretto al benessere diffuso. Senta, il ministro francese dell'economia Macron dice che tutti i giovani dovrebbero sognare di essere miliardari, in questo spirito, insomma. E io penso proprio di sì. Senta, l'idea di ricco è bello, però un po' austendi, non è troppo torinese, o no? No, io non ho detto ricco è bello, io ho detto imprenditore è bello. Comunque un po' la storia del ministro francese, la conseguenza è che c'è una ricaduta forte per chi produce della ricchezza e onestamente paga le tasse, fa tutto bene, c'è una fortissima ricaduta sul tessuto sociale. Certo, anche lei spesso la descrivono come il manager del maglione blu. Ma è iniziato prima lei o prima Marchionne? Beh, io sono andato in borsa nel 99 col maglione blu e i jeans. Va bene, quindi prima lei. Marchionne potrebbe essere allora un ottimo testimone dello stile informale di Basic Net, oppure no? Sì, potrebbe andare bene. Grandissimo testimone. Sì, però lei ha detto in un'intervista, ha detto che come testimonia preferirebbe, per Kiwi naturalmente, sceglierebbe l'Apo. Cioè ci portiamo a casa tutta la famiglia, diciamo. Portiamo a casa tutta la famiglia, metterei Marchionne per la roba di K e l'Apo per la KY e sarei contento. Va bene, ma c'è un modo torinese di essere imprenditore secondo lei? Sì, Sì. Penso di sì. C'è un modo, c'è questa concretezza, c'è questo non essere mai contenti, c'è questo cercare sempre di fare meglio, c'è questo concetto proprio quasi calvinista, diciamo. Sì, non so se calvinista, ma comunque all'efficienza, al risparmio per produrre di più e produrre meglio. Senta, tra gli imprenditori torinesi di ieri e di oggi ce n'è uno in particolare a cui lei deve molto. Senta qui. Maurizio Vitale, 34 anni, torinese, amministratore delegato di una società che produce blue jeans. È l'uomo del giorno perché ha battuto gli americani nella corsa a vendere per primo i blue jeans in Unione Sovietica. Ne venderà per 7 milioni e mezzo in 5 anni, questo tanto per cominciare, poi si vedrà. Signor Vitale, come le è venuto in mente di poter essere proprio lei a vendere i blue jeans ai sovietici? Ci provavano gli americani, abbiamo voluto provarci anche noi, c'erano anche degli europei, degli italiani e noi ci siamo fatti sotto perché non avevamo niente di meno degli altri. Ecco, era Maurizio Vitale, intervistato a Mixer da sottoscritto, era riuscito a vendere i suoi jeans Jesus in Unione Sovietica battendo gli americani, un colpo pazzesco. Che imprenditore è stato Maurizio Vitale? Ma innanzitutto bisognerebbe dire che non è che un imprenditore, un uomo a cui io devo molto, ma forse si potrebbe dire che devo tutto a Maurizio Vitale. Era un imprenditore forse proprio un po' avanti, lui pensava un po' uno Steve Jobs, pensava che l'impresa e gli imprenditori dovessero essere guidati dalla creatività, dall'immaginazione, dalla simpatia. Insomma, un bel tipo. Tutti sì. Si ricordano la campagna pubblicitaria di quei jeans, un bellissimo lato B di una splendida ragazza con scritto "Chi mi ama mi segua". Chi l'aveva inventato? Ma lo scatto, diciamo, la fotografia l'aveva inventata Oliviero Toscani e il "Chi mi ama mi segua" l'aveva messo su quella fotografia Emanuele Pirella. Ecco, c'era anche quella ancora più forte: "Non avrai altro jeans al di fuori di me". Che reazioni ci sono state lì? Delle belle reazioni, compresa quella di Pasolini, che ha detto "quando è troppo, quindi va bene tutto". L'innovazione. Ed era troppo, no? Ma no, non era troppo, no. era giusto, cioè, in quel momento. In quel momento sì, oggi non avrebbe senso. Ecco, invece Rob DK come nasce? Da dove è nato sto nome? Nasce da una storia curiosa. A un certo punto proprio questo Maurizio Vitale aveva visto John Lennon in Francia in televisione protestare contro il Vietnam con indosso una camicia di un militare americano morto in Vietnam. Il giorno dopo era esplosa la moda militare, lui era tornato a Torino, aveva fatto tingere di verde delle canottiere, delle magliette della salute, messo dei gradi e il presidente dell'azienda gli aveva detto "sì, va bene, tu sei bravo, ma come le chiamiamo queste robe?" Lui gli ha risposto "ma dottore, le chiami come vuole, le chiami le robe di K". Senta, poi fu lo stesso Vitale però, dopo averla messa a capo a 25 anni del marketing, che ha detto "no, vattene fuori". Perché? Perché ha detto "tu non sei un manager, io sono malato, quindi non durerò moltissimo e devi farti la tua impresa, devi fare l'imprenditore". Ecco, la Football Sport Merchandise, la sua prima esperienza da imprenditore, di cosa si occupava? Si occupava di fare magliette per dei ragazzi che in quegli anni volevano meno prodotti legati alla contestazione sociopolitica di quegli anni, volevano lo sport. Volevano divertirsi. Volevano lo sport. Quindi lei è il primo che ha inventato il merchandising delle squadre di calcio? Beh, non al mondo, in Italia sì. Sì. Ecco, nel 94 lei riacquista il marchio che era di Vitale e da lì nacque BasicNet. Che significato ha avuto per lei comprarsi quel marchio? Ha avuto un grandissimo significato, è stata una cosa molto emozionante a cui ho pensato praticamente tutti i giorni, a Maurizio Vitale, a come avrebbe fatto lui e cosa mi aveva insegnato, fino a quando non sono riuscito a fargli dedicare un pezzo di città. Oggi noi siamo la BasicNet, l'indirizzo da BasicNet è Largo Maurizio Vitale 1 Torino. Bello, da quel momento sono stato un po' più tranquillo. Senta, lei ha anche un altro primato, il logoro di K è il primo che è comparso sulle maglie della Juventus, è così? Sì, è così nel 78. Ecco, com'è che le è venuta l'idea di questa sponsorizzazione? È venuta Vitale, francamente. Ah. Io condizionavo molto Vitale, che era un po' più grande di me e che era rimasto un po' al 68, al mondo del jeans. Sì. Io ero più giovane, gli dicevo: guarda che i ragazzi come me vogliono andare avanti, vogliono lo sport. E lui sostanzialmente un giorno disse che avevo ragione. E molto velocemente ha pensato di andare alla Juventus. Lei è Juventino? Lei è Juventino? Io sono Juventino. E da lì è nato un business enorme della sponsorizzazione. Era regolamentato oppure era un far west? No, ai tempi non era regolamentato. Infatti la prima disposizione in Lega fu a seguito della nostra sponsorizzazione con la Juventus. Dice bene, è nato un business incredibile, perché di comunicazione evidentemente. Pensi che da quegli anni, nonostante tutte le crisi che si sono susseguite, i prezzi delle sponsorizzazioni sono sempre aumentati. Ecco, senta, il maglificio, la Rob di K, sono stati i primi marchi che lei ha comprato, rilanciato. Poi sono arrivati Kiwi, Superga e altri. Com'è che sceglie i marchi da rilanciare? Beh, scegliamo i marchi da rilanciare. È un feeling particolare, cos'è? Sì, diciamo, gli americani la chiamano la romance, la storia, il DNA del marchio. Quindi cioè, sono conta tutti... la storia conta, del marchio? Conta, conta moltissimo. Perché si assomigliano spesso tante cose, però prendo quello invece che quell'altro. Sì, si assomigliano magari nel momento in cui tu li valuti, ma nella storia si distaccano da altri marchi. Quindi certo. I nostri marchi sono tutti marchi che hanno una lunga storia. E poi l'altro elemento di decisione è se il marchio è veramente finito, cioè se non c'è più business, allora va bene per il nostro modello di business ricominciare proprio da zero. Ecco. Lei ha detto che l'Italia è il miglior showroom del mondo, perché? Cioè? Ma l'Italia per tante cose è unica, e quindi quando un prodotto si afferma in Italia, anche per il tipo di distribuzione molto frammentata, molto, molto capillare, e poi nel campo della moda, come del design o dell'agroalimentare, siamo campioni del mondo, quindi quando si afferma in Italia passa in tutto il mondo. Facciamo moda. Ecco, l'Italia, diceva, siamo bravi a far nascere le mode, ma come muore invece una moda? Perché di colpo una giacca, un marchio non sono più di moda? Ma la moda è un po' come la cultura, non è che muore ma va avanti, quindi non muoiono le mode, però vengono soppiantate da nuove mode. Quindi si stratificano? La capacità si stratifica, qualcosa rimane delle vecchie, evidentemente non vanno più i tailleur di Coco Chanel, ma il tailleur è rimasto un punto fermo dell'abbigliamento di moda. Ecco, a proposito di Coco Chanel, e Armani sono i suoi due stilisti preferiti, perché? Sono i miei due stilisti preferiti perché sono stati più, magari non solo, ma per come li vedo io, i più grandi innovatori dei loro tempi. Sono d'accordo. Lei ha detto che per iniziare un'impresa è necessario che almeno un altro ci creda, un socio, una moglie. Lei quando ha iniziato chi aveva? Un socio e una moglie. Ah, tre. Senta, quindi la teoria... Ho iniziato con due aziende, una con la moglie e una con un socio. Senta, quindi la teoria dell'uomo solo al comando per lei non funziona? No, non funziona. No, non funziona. Quindi Renzi da solo no? Renzi con la Boschi? Renzi non è da solo. Ah no, la Boschi? C'ha la Boschi. C'ha una squadra di tanti ragazzi molto in gamba. Le piace Renzi? Sì. Perché? Ma appunto è coraggioso, giovane, visionario, e ha una squadra, ha messo insieme una squadra, ha rinnovato moltissimo il modo di fare politica. E c'è qualcosa che non le piace di Renzi o no? No, non glielo direi. Non me lo direbbe. Senta, molto torinese, senta, lei però la Boschi come testimonial la vorrebbe per cosa? Sì, per sì, cosa? Sì. Che la farebbe fare il testimonial di cosa? Ma di una bella giacca che vuoi. Sì? Sì, anche delle Superga. Anche delle Superga. Sì. Sì, però con quei tacchi bisogna cambiare il genere. Abbiamo di... anche le scarpe le Superga con i tacchi, Superga, ma la Boschi starebbe benissimo anche senza tacchi. Quindi i gelati secondo me portiamo le Palazzo Superga. Chigi, la Superga con la... va bene. Sono tanti per oggi quelli che dicono che fare imprese in Italia è diventato impossibile. Lei lo pensa anche no, lei? Impossibile no. È un po' più difficile oggettivamente. Perché? Perché c'è molta burocrazia, ci sono una pressione fiscale elevata, oggi si combatte sul mercato globale, quindi ci si confronta con imprese che hanno ambienti e più favorevoli. E quindi l'ambiente lo determina. Sì, però se mi consente, sì, la cosa più difficile di fare impresa in Italia oggi è culturale, è perché l'imprenditore non è vissuto come una figura positiva, soprattutto dai giovani. È come se la nazionale di calcio dovesse giocare delle partite impegnativissime di Coppa del Mondo con uno stadio che non tifa per lei. Certo, quello non sarebbe facile. Senta, Basic Net, abbiamo detto, ha un'organizzazione completamente diversa, nuova, non è verticale. Quindi il modello vecchio di fare impresa, secondo lei, è superato in tutti i settori del fare impresa? Ma diciamo che per fare impresa ed essere competitivi bisogna essere veloci, flessibili e affidabili. Sì. Quindi il modello BasicNet, che si basa appunto sulle nuove tecnologie, ha questi tre fattori critici di successo più accentuati. Che poi gli altri modelli siano superati da buttare via, no, però, ma insomma, soprattutto si è adattato meglio piccoli, al cambiamento. Si cresce più velocemente. Ma perché usa la parola basic un po' per tutto? BasicNet, Basic Village? Ma è un po' il motivo, basic è il linguaggio di programmazione universale delle nuove tecnologie, vuol dire beginner, sole purpose, symbolic instruction code, cioè sono codici semplici, comprensibili da tutti, e quindi calza bene anche al modo di fare impresa. Ma perché si arrabbia quando le danno dell'imprenditore diverso? Ma perché quando qualcuno mi dà dell'imprenditore diverso mi vuole fare un complimento, e io invece penso che deve essere che così l'imprenditore. Sono un imprenditore, basta. Sì, non però diverso. Un imprenditore è un po' diverso, scusi. I suoi dipendenti possono seguire corsi di lingua, di botanica, hanno a disposizione anche una specie di maggiordomo che paga le bollette. Insomma, tutto vero? No? Sì, tutto vero, ma non siamo i soli. Non è proprio dappertutto. No, non è dappertutto. Non è dappertutto, ma non è neanche solo lì. Senta, un altro tema caldo legato al mondo imprenditoriale italiano soprattutto è quello del passaggio generazionale. Senta qui Daniele Ferrero cosa ci ha detto. È vero che nella sua azienda è vietato per statuto assumere consanguinei? Allora, più che per statuto, è un codice etico che ci siamo dati ed è vietato ai dirigenti, consigli di amministrazione e agli azionisti. Quindi se uno dei suoi tre figli domani le chiedesse di occuparsi dell'azienda, lei glielo vieta? Assolutamente no. Ecco, lei non è d'accordo, Boglione, su questa analisi di Ferrero? No, io non sono d'accordo in tutto quello che è un po' radicale, quindi certo, no, non vedo nessun problema assumere. Dipende, insomma, lei dice dipende. Lei ha due moglie, libertà, quattro figli. Quindi lavoreranno tutti e quattro in BasicNet o no? Non lo so, due stanno già lavorando in BasicNet e siamo tutti molto contenti, compresi loro e il sottoscritto. Gli altri due sono troppo piccoli, quindi vedremo. Senta, ma le piace l'idea di lasciare il timone a loro o la spaventa? Per davvero? No, non ci ho mai pensato. Non credo di pensare in termini di lasciare il timone a loro. Loro contribuiranno alla famiglia dell'azienda. Insomma, per comanderà che... sempre lei? No. Sì, no, non credo. No. No. Anzi, io la guardo negli occhi. Mi guardi pure. Di No. Anzi, io ho proprio l'obiettivo che è quello di un imprenditore, non soltanto il mio, è quello di vedere quello che ha creato andare avanti da solo. Ma lei cos'è che vorrebbe essere sicuro di aver insegnato ai suoi figli? Quello che vorrei avere insegnato ai miei figli, mi piacerebbe insegnargli a un certo punto a fare quello che dovrò imparare a fare io, cioè l'azionista più che l'imprenditore. Certo. Senta, ho letto che nel suo futuro da azionista c'è anche un progetto, una basic boat. E cos'è esattamente? Non avevo avuto l'esperienza di trasformare delle strutture immobiliari industriali in multifunzionali. Mi piacerebbe provare a fare la stessa cosa con delle navi di tipo navi industriale. È vero che produce anche la sua passata di pomodoro, una vero basic tomato? Vero, sì? Verissimo. Sì, sì, riesce a mangiare solo quella oramai? No, mangio anche altro, ma mi piace mangiare preferisce quella. E colleziona computer, no? L'ultimo sì. acquisto, ho letto che un Apple 1 vorrebbe fare un museo della tecnologia a Torino. E si dedicherà a questo? No, spero di poterlo fare. Abbiamo già fatto un prototipo, si chiama Temporary Museum, è aperto a Torino da 3 anni. Effettivamente abbiamo collezionato cimeli di quella che noi chiamiamo la rivoluzione informatica. Certo, però lei si è occupato anche di cinema a Torino. Mi sono occupato di cinema e anche di altre cose, serio. Di attrazione di investimenti esteri. Adesso mi occupo di un centro regionale per la ricerca sull'oncologia, perché da quando ho 40 anni, cioè da 20 anni, cerco di fare un po', di dedicare un po' del mio tempo al non profit. Senta, quindi nel futuro c'è non profit, pomodori, computer. Ho letto che adesso è appassionato anche di droni. Perché i droni? Sempre per quella ragione lì? Ma a me piace la fotografia da quando sono ragazzo poi bisogna definire il drone. Il drone è un computer che vola e di conseguenza mi piacciono, perché fanno le fotografie in diciamo modo delocalizzato, puoi mettere la macchina fotografica dove vuoi, ma soprattutto mi piace la tecnologia che li fa volare, perché sono dei computer talmente bravi che riescono anche a volare. E quindi anche i droni sono basic. Anche i droni sono basic. Grazie. Grazie a lei. 800 24 00 24 numero verde, 349 238 6666 l'SMS. Mix 24. Allora Mario, Boglione è un bel tipo. Sì, no, molto, molto interessante, divertente. E mi veniva in mente, lo commentavamo prima, appunto la cultura psichedelica tipica americana della California, quindi degli inventori. Io me lo immagino col surf, che colleziona già transistor computer. Secondo me ha anche un Apple One nella sua collezione, a occhio direi che così. No, e fare questo titolo, psichedelico. Un personaggio veramente sfaccettato e interessante. E tu, Pietrangelo? Senza titolo. Senza titolo. Come senza titolo? Sì, per una volta, sì. Senza titolo. E siccome lui per il basico, quando ha detto quando ha spiegato basic è impazzito. Sì, perché lì mi è venuta voglia di fare l'elogio di Scilipoti, che in Senato non ha saputo pronunciare questa stepchild adoption. No. Si dice così, adoption. Child adoption. Ma tu la conosci la stepcock adoption? No, che è? È l'adozione del gallo. Poi te la racconto. Vai con la canzone, Pietrangelo. My love is always just as she seems. A force of nature, all her room to be reckoned with. Whatever's wrong with me, her kiss redeems. Che si cammina per strada, si esce dalla metropolitana, poi si rientra in metropolitana, e comunque in tutta questa confusione io vedo scivolare dal cielo un sogno. Piombava dalle nuvole e aveva una destinazione sconosciuta, poi si è messo sotto un albero a riposare, si è goduto la giornata col suo fascio di occhi tristi e ha chiamato Gelsomino, ha chiamato Jasmine. Vuoi dirlo così? Vabbè, ha chiamato Gelsomino, ha chiesto, sì, è un po' come Genoveffe e Genevieve, cosa Genoveffe preferisci? Insomma, Gelsomino ha chiamato spargendo il suo profumo e ha chiesto se per caso si fosse visto da queste parti tulipano, giusto per andare per Ciuri. E il Gelsomino ha detto: voglio questa canzone e la dedico a me stesso. Oggi, la sapevi. Oggi siamo in freestyle, pericolosissimi. Non c'è niente in tutto questo nel nostro copione. Scusa, perché tu non la sapevi quella di Genoveffa e Genevieve? Sì, è bella. Scusa, dice: con chi vuoi uscire? Con Genoveffa o con Genevieve? Tu cosa sceglieresti? Ma non avrei dubbi. Cos'è più chic, Walter o Gualtiero? Beh, Gualtiero è bello. È molto più chic. Sì, secondo me Gualtiero ha un aroma di antico meraviglioso. Sì, sì. Oppure scrivere Walter. Ma che Walter diventa Walter, un'altra cosa. Walter e poi a Roma diventa a Walter. Insomma, quindi è. Okay. E poi ovviamente la forma più fine in assoluto è scrivere Walter con la V di Verona. Beh, salutiamo Veltroni, certo. Dai. Ciao, beh, vabbè, non è che è l'unico Walter lui. Beh, mi viene in mente lui, però. Dai, Walter nazionale. Perché lui. Nella tua agenda. Anche. Vai con la tua bolla, Mario. Sì. You know the day destroys the night, night divides the day, try to run, try to hide. Beh, qui siamo nel, direi, negli anni più fecondi, più interessanti, psichedelici, non a caso, della nostra musica contemporanea. In quel periodo nacque veramente tutto, o quasi. Sì. Questi sono i Doors, sentiamoli ancora un po'. Can you still recall the time we cried? Bring on through to the other side. Bring on through to the other side. Siamo tra i giganti e restiamo tra i titani, tra quelli del petrolio. Sono usciti i dati di Shell, che è uno dei principali player appunto del settore, e male. Profitti a meno 44% nell'ultimo trimestre, quindi da 3.3 miliardi di dollari a solo, tra virgolette ovviamente, 1,8 miliardi nel 2015. Tempi molto duri per chi si occupa di estrazione e esplorazione del petrolio, soprattutto perché è un settore dove non si può star fermi, nel senso che occorre fare continuamente acquisizioni, fusioni, investimenti in ricerca. Basta pensare che cosa ha provocato qualche anno fa la rivoluzione dello shale oil e dello shale gas. Non è facile tenere insieme dunque il bilancio, però ieri leggevo alcune previsioni degli analisti che sono molto interessanti secondo me, e cioè si pensa che le quotazioni del petrolio entro il 2016 avranno addirittura un rialzo del 50% rispetto ai prezzi attuali. Sì, cioè, che però vuol dire sempre andare a 46-48 dollari, 50 beh, però dollari. Stiamo a 30 anche sotto, quindi secondo me è molto... Eravamo a 100 però. Certo, eravamo anche a 120 e anche di più. Comunque, no... No. Target 48 significa che tu hai 30, beh, insomma, un bel guadagno. Ho capito che vuoi investire. Senti, no, sì, crollo. Chi vuole può investire in un bel future sul petrolio. Chi vuole. Ecco. Chi invece no, se li tiene là, eccetera. Io comincio a guardarli, però. Il crollo del prezzo del petrolio, però, di cui stiamo parlando, legato alla crisi libica, ruolo guida che l'Italia potrebbe assumere nel tentativo di stabilizzare l'area del Mediterraneo. Sono e resteranno temi centrali, no? Noi abbiamo ieri parlato a Mixer con il ministro Pinotti, che ci ha detto che i pozzi dell'Eni in Libia sono protetti. Allora, noi torniamo un momento proprio indietro alla storia dei rapporti tra la Libia e l'Italia, rapporti in cui il petrolio ha un ruolo fondamentale, come abbiamo detto, e la storia parte da lontano, parte da Ardito Desio, l'esploratore geologo italiano che ha scoperto il petrolio in Libia. Ascoltiamo la sua testimonianza diretta. In quell'epoca mi occupavo di cercare l'acqua nel sottosuolo della Libia. A un certo momento, insieme con l'acqua, ho visto delle macchioline nere. Mi sono domandato cosa sono. C'avevo delle cartine da sigarette. Ho visto che si ungevano invece che si bagnavano. Allora ho capito che non era acqua, ma c'era anche del petrolio. Ecco, è lì cominciata la storia di questi rapporti stretti tra l'economia libica e quella italiana, arrivano proprio da qua. Ecco, una volta trovato però il petrolio, è finita la guerra, sono arrivati gli inglesi a Roma e si sono subito messi a cercare le carte di Desio. Si dice che la prima camionetta inglese entrata a Roma il 6 giugno del 44 si è recata direttamente alla sede dell'AGIP. Le carte di Desio facevano gola alle compagnie petrolifere anglo-americane. Dopo la guerra fioccano le concessioni per la ricerca del petrolio nel territorio libico. Il primo pozzo viene perforato il 30 aprile 1956. In Cirenaica, in Tripolitania, nel Fezzan, ogni anno entrano in funzione nuovi pozzi e la Libia si avvia a diventare uno dei maggiori paesi esportatori di petrolio. Sono poi i pozzi della Shell, dell'Oasis della Gulf, della Texas, dell'American Overseas ad entrare in produzione. Il 12 settembre 1961 il petrolio libico viene per la prima volta caricato direttamente sulle petroliere nel porto di Marsa El Brega, dopo aver percorso i 167 chilometri del nuovo oleodotto. È l'operato di Enrico Mattei a riportare anche la compagnia italiana AGIP tra i partner del regime senussita. Giunge in porto la petroliera Esso Roma, che trasporta il primo carico di petrolio greggio proveniente dai giacimenti libici di Zelfen. Accolto dal consigliere delegato Angelo Moratti, il ministro visita gli impianti della Rasiom e dà il via alle operazioni di carico e scarico del petrolio. La cerimonia può essere considerata una concreta manifestazione dei sempre più stretti rapporti che uniscono oggi l'economia libica a quella italiana. Beh, quindi i rapporti vengono veramente da lontani. Dare ogni tanto questa prospettiva penso che sia utile per capire che le cose si tengono. Ecco Mario, questi rapporti sono loro che ci rendono partner fondamentali nella gestione della crisi libica sul piano internazionale? Sì, ma certo, chiaramente la storia non la puoi mettere da parte. Poi c'è un numeretto che ricordiamo, cioè che la Libia rappresenta il 20% della produzione di Eni. Quindi questo è Pietrangelo. Questa è la politica estera, poi se qualcuno la fa diversamente ne prenderemo atto. E poi non c'è solo il petrolio in realtà, perché c'è un rapporto antico che si è stabilito con la quarta sponda, ed è anche nel lavoro che da sempre fanno le missioni archeologiche, ed è un lavoro che da sempre fanno accanto alla diplomazia anche gli istituti di cultura, che non è erudizione, ma economia e commercio, è l'altro petrolio ed è il futuro del petrolio quando sarà fatto soltanto di bellezza e soprattutto di turismo. Giusto. Ma c'è quanto è culturale butta fuoco. Bestiale, ci dà sempre una lezione. Io sono mi alzo e me ne vado. Per fortuna che butta cosa? Fuoco c'è. Bravo. Ve la posso dire una cosa? Dicela. Ve la dico metà in siciliano e metà in italiano. Oddio, sto corazzato. Insomma, fatevi ammulare le corna tutte e due. E dai, un po', te l'ho detto che stamattina è freestyle. Un salamino c'è. Salamino! La grande marcia di Sala, l'ex commissario di Expo, che è il più ciripiripi della banda dei quattro, cioè forte. I quattro candidati dalle primarie del centro-sinistra, sbaraglia tutti e... Novella Turandot, il commissario Sala incassa l'appoggio della comunità cinese. Astuto e spietato come la vedova di Mao Zedong, Beppe Sala la sua lunga marcia se la prepara già dai tempi in cui era un giovane di bottega di Letizia Moratti. Additata ormai a tutti e tutti i Katanga già si sono mobilitati come lo spettro di Chiang Kai-shek. Ma vezzoso come Turandot, Sala riduce al rango di ping pong pang i suoi avversari alle primarie. Allora, la situazione. Quelli di Comunione e Liberazione, manco a dirlo, fedeli come sono alla fatturazione, sono già con lui. Altro che Family Day, quelli sono sempre per il take away. Con Sala, poi, novella Turandot, si schierano anche gli uomini dell'Opus Dei. E un circostanziato articolo di Gianni Barbacetto oggi sul Fatto Quotidiano disegna la mappa degli schieramenti di Sala, che è il grande timoniere. Altro che Guevara, lui è il Mao Zedong sotto la Madonnina. I cinesi sono già in fila per votarlo. Il giornale della comunità cinese pubblica la foto di questo bel fiore con la scritta VOTAMI, che sarà una cosa cinese credo, perché c'è tanto di trattino. Comunque, cosa dire di lui? Chi quel gong percuoterà, apparire la vedrà bianca al pari della giada fredda come quella spada e la bella Turandot. E però il finale è sempre incompleto della Turandot. E dunque Nessun dorma. Va bene. Nessun dorma. Senti, ma ma non mi dire che Mario tu sei pure per Sala. Noi cinesi per Sala. Io per a me nessuno. Colpisce come mai i cinesi sono non per Sala. Voto perché i cinesi come l'Opus Dei, come una liberazione, ci piacciono i sordi. Vabbè, ho capito. Cinesi. L'elemento. Io lo vado cinesi sono bravi, Ma i cinesi sono costruttori di futuro oggi. Tu hai qualcosa sul futuro oggi, mi sembra. Ma guarda, una cosa fantastica. Una bolla fantastica. Vai. questo è un po' da divanetto, ore 20, Gin Martini, senti qua. Rigorosamente col calice da Gin Martini, senti. Ok, for this Vietnam edit, questo sarebbe il titolo del pezzo. Ah, e parliamo di futuro. Per parlare di cosa? Per parlare di Google e del suo algoritmo, cioè del search box, della ricerca, di quello che facciamo tutti i giorni in miliardi, cioè googolare. È l'azienda più capitalizzata del mondo, lo sapete, 550 miliardi, ha superato Apple l'altro giorno in borsa. Ma perché l'algoritmo, esattamente, che cos'è? È una composizione, una formula, si potrebbe dire, di codice che attraverso dei parametri cerca nel vasto mondo delle parole, mettiamola è così. È quello che cerca, lo strumento. Il parametro che fa cos'è? Il parametro può essere matematico, può essere semantico, sì. Dipende. E può il semantico che cos'è? Ah, vabbè, dai. Sema, significato, butta fuoco. E il significato che cos'è? L'assegno. Ti va bene? No, ma allora stavi raccontando questa cosa. No, allora loro cambiano. Ti ho chiesto dell'algoritmo per quello. No, loro sostanzialmente la formula oggi è una formula appunto basata su dei parametri che cercano di emulare l'intelligenza umana, senza ovviamente riuscirci, tant'è che se voi andate a fare una ricerca su Google, su qualsiasi parola, come su un altro motore di ricerca, perché i criteri sono quelli in questo momento, avete dei risultati molto imperfetti, sempre più perfetti rispetto al passato, ma comunque imperfetti, cioè c'è dentro, diciamo così, molta spazzatura rispetto a quello che voi state cercando, cosa che invece non avviene se tu usi appunto un nuovo criterio, che sarebbe quindi quello neurale, cioè far funzionare, far funzionare l'algoritmo in base all'interazione dei neuroni, cioè cercare di far funzionare l'algoritmo come il mente, cervello, come il cervello. Bello, come il cervello, come la mente. Allora, questo tutto perché lo stiamo dicendo? Sì, perché a Google è successa esatto, una cosa molto importante. È andato via l'ingegnere indiano che per 15 anni ha guidato quel settore. Cioè che quello che aveva inventato quell'algoritmo. Esatto, e che l'ha migliorato, perfezionato sì, e così vabbè, via. Certo. Lui si chiama Amit Singhal, è una figura leggendaria dentro Google, è stato definito un direttore d'orchestra, sì. Insomma, è l'uomo che aveva in mano le chiavi reali dell'azienda ed è stato sostituito, questa è una cosa molto interessante, secondo me, che dà un'idea di che dove va il futuro in questa direzione, che riguarda tutto, vorrei ricordare, certo. Da un signore che si chiama John Gianandrea, che è esperto in che cosa? In intelligenza artificiale, in particolare in che cosa? In machine learning, cioè nell'apprendimento da parte delle macchine dei meccanismi di selezione degli argomenti e dunque sempre più vicino al sempre cervello. Più vicino al cervello l'algoritmo sì, di Google sì, è sempre sì. più loro, vicino Google ha, Google ha un progetto che si chiama Rank Brain che cerca di far funzionare appunto l'algoritmo come le interazioni tra i neuroni. Interessantissimo io direi che sostanzialmente gran parte della ricerca oggi sull'intelligenza artificiale è su questo ed è una cosa che cominciò per gli appassionati di cinema e di letteratura con Turing. Il codice Enigma è un grandissimo racconto e il film è meraviglioso appunto per questo, perché comincia l'era dell'intelligenza artificiale. Canzoniere! Eccolo! Terremoto, San Gregorio Magno, no, no, è il fuoco, fuoco in casa Trao, Don Diego, Don Ferdinando, si udiva chiamare in fondo alla piazzetta e uno che bussava al portone con un sasso. Dalla salita verso la piazza grande e dagli altri vicoletti arrivava sempre gente, un calpestio continuo di scarponi grossi sull'acciottolato, di tanto in tanto un nome gridato da lontano. E insieme quel bussare insistente al portone in fondo alla piazzetta di Sant'Agata e quella voce che chiamava «Don Diego, Don Ferdinando, che siete tutti morti?» 800 24 00 24 numero verde 349 238 6666 l'SMS, insomma, un pochino più facile. Eh sì, l'aiutino lo posso dare? Dai, dallo. Domani è Sant'Agata. Ah, va bene. Però va lui bene. Non era di Catania. No, no, no. Abbiamo ricevuto complimenti per la notizia su Google. Ah, che bello! Pubblicità. Beh, non grazie a Andy e Sway. Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio. Progettofuoco.it vi presenta. Mix 24. Fantozzi Ragioni Rugo, matricola 1001 Barabis dell'ufficio sinistri. Signorina, e do un bel bagno alla faccia di Galvoni. Cameriere, scusi, com'è l'acqua della piscina? Ma quale acqua? Loro non lo sanno, ma io sono indistruttibile. Sai perché? Perché sono il più grande perditore di tutti i tempi. Sveglia e caffè, barba e bidet, presto che perdo il tram. Posso dire una parola io? Allora? Per me la corazzata Potemkin è una cagata pazzesca! È vero, Villaggio ci ha regalato il riscatto dei perditori. In quasi 50 anni di carriera, i libri, le commedie e i film hanno insegnato a un pubblico senza età che l'ironia vince tutte le debolezze e che nel suo ragioniere pavido e goffo c'è un pezzetto di ognuno di noi. E allora ascoltiamo qualcosa di più della sua vita e della sua arte. Villaggio Globale, lo scrittore, l'attore, il padre, l'amico, ritratto corale con tante risate e un po' di verità. Qui a Mix 24, dopo il giornale Rai. Abbiamo Alfredo da Viterbo, lo state cercando, che ha telefonato per il canzoniere. Intanto che lo cercano, leggo un messaggio di Maria da Genova per Buttafuoco. E dice: Buttafuoco, mi butterei nel fuoco per te. Capito? Cioè, vabbè, siamo arrivati proprio me ne vado. Al suicidio per non Buttafuoco. No, donne vabbè, che no, si suicidano. Non è meraviglioso. Abbiamo ritrovato. Io mi alzo e me ne vado. D'altronde è di bello. Quel che non si può dire, bisogna tacere. Ma voi lo vedete con questi occhi cerulei, così carino. Troppo tutto bello. Pensa se lo vedessero anche. C'è Alfredo? E questa è la radiovisione. C'è Alfredo? Alfredo da Viterbo, buongiorno. Montefiascone per la precisione. Ah sì, Montefiascone, beh, una bella differenza. Senta, mi dice cosa abbiamo proposto? Mastro Don Gesualdo di Verga. Ma fantastico, giusto, bravissimo. Evviva. Che cosa fa lì a dove ha detto Montefiascone? Montefiascone, la patria del vino SSS. E lei che fa, vino? No, io sono detenzionato, comunque mi occupo del mio piccolissimo vigneto. In questo momento sono in mezzo alla vigna. Ah, che meraviglia. E quindi ci sente in podcast? No, ci sente sul telefonino, con la radio. Come lo sente? grazie, arrivederla. C'è ancora una bolla? No, c'è un aggiornamento però importante, secondo me, te lo do così al volo. E in Grecia c'è lo sciopero generale contro la riforma delle pensioni. La Grecia, qua almeno lo facciamo, ma secondo me è un paese da tenere d'occhio di nuovo. Ritornerà al centro dell'attenzione politica. Non stanno a fare riforme, quindi prima o poi, secondo me, gli 80 fischi a miliardi che gli abbiamo concesso, non so, sarà difficile continuare a dargli. Rivediamo. Senta, bene, adesso col professor Roberto Bernabei commentiamo le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste di tutto il mondo. Medicina, le frontiere della ricerca. Journal Watch, gennaio 2016. Effetti della supplementazione di testosterone in anziani con basso livello di testosterone. Il testosterone diminuisce fisiologicamente con l'età e è ritenuto uno dei responsabili, questa diminuzione fisiologica, della cosiddetta andropausa. L'andropausa sarebbe l'equivalente della menopausa, prende in genere uomini intorno ai 70 anni ed è una serie di sintomi come facile stancabilità, diminuzione della libido, una insoddisfazione quasi generale per la vita, ed è stato attribuito un effetto importante appunto al testosterone. E allora si è pensato, e molti hanno fatto utilizzo, della supplementazione del testosterone per ridare un po' di pepe alla vita e magari anche una maggior capacità erettiva e quindi facilitare i rapporti con l'altro sesso. Allora, si è visto che certamente chi è che ha delle diminuzioni importanti del testosterone, il rimpiazzo è un po' come quando uno ha la tiroide, gli ormoni tiroidei bassi, il rimpiazzo con testosterone aiuta e facilita. Ma tutti, diciamo, questi uomini borderline che hanno magari appunto una facile stancabilità, hanno un testosterone medio-basso, conviene dare una supplementazione di testosterone? Bene, questi studi che sono riportati da Journal Watch, che ha messo un po' insieme tutti i vari trial che sono stati fatti, diciamo che l'effetto non è affatto esaltante e ci sono semmai la possibilità di effetti collaterali, soprattutto cardiovascolari, per cui state molto attenti. E il testosterone vale la pena rimpiazzarlo solo se ci sono delle indicazioni molto precise, molto stringenti, di livelli formidabilmente bassi dell'ormone. Se no, tenetevi la vostra andropausa.